Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei Magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Oggi I Magnifici Destini vi offre un'opportunità straordinaria, quella di assistere a uno degli eventi più epocali della storia della musica, la nascita del rock and roll. Un genere, uno stile di vita, una religione, un vero e proprio colpo d'accetta che si abbatte sul mondo riscrivendone le regole e modificandone l'aspetto, cancellando i suoi confini fino quasi a farli sparire. Usi, costumi, modi di pensare e comunicare, tutto improvvisamente verrà messo in discussione a suon di fendenti menati sulle corde di una chitarra, provocando uno scossone, un brivido che percorrerà i corpi di milioni di persone in tutto il mondo. È la risposta alla rivoluzione industriale che invade il pianeta a partire dai primi del Novecento. Un suono ancestrale e primitivo che tramite un jack si collega all'uomo, alimentandone i sogni, le emozioni. Vi sembra che stiamo esagerando? Questo è niente. Stiamo parlando del rock and roll. Shoes, 'cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news. There's good rocking in that. Penso che la cosa più importante sia l'ispirazione che ti dà il pubblico, soprattutto dal vivo, durante gli show. È una cosa che mi piace. Quando parli di rock and roll, parli di concetti ampi, grandi quanto la somma di tutte le arene dove questo suono si è udito. Parli di amore e di libertà, di essere umano e di Dio, e lo fai usando il linguaggio più universale che esista. Quello che un basso, una chitarra, una batteria e una voce riescono a mettere insieme. Non c'è una cosa che il rock non abbia detto, non c'è sentimento che il rock non abbia provocato. Senza il rock non ci sarebbero stati i Beatles, Woodstock, Johnny Depp, il crollo del muro di Berlino, l'euro, Hillary Clinton, gli omogenizzati, i Simpson. È tutto scientificamente provato. La musica country è sempre stata parte delle influenze che fanno parte della mia musica, che alla fine non è altro che una combinazione tra musica country, gospel, rhythm and blues, tutto messo insieme, insomma. Ecco, io sono stato influenzato da ognuno di loro. È risaputo che i regni, le dinastie, da quelli più brevi e improvvisati a quelli più longevi e solidi, devono la loro origine a un capostipite, un'autorità che, acclamata dal popolo, ha tracciato il terreno e ha cominciato a esercitare il proprio potere, tramandandolo ai discendenti. Un re, il primo, colui che ha fatto sì che tutto potesse cominciare. Nel rock, contrariamente ad altri ambiti, non c'è il rischio di cadere in errori di valutazione o in falsi storici, perché nel rock esiste un solo e unico re. All right, ladies and gentlemen, boys and girls and everybody else, the great moment that you've waited for, the one and only Elvis Presley. Siamo a Memphis, Tennessee. È il 5 luglio 1954 e nonostante sia l'ora del tramonto, la città è ancora avvolta da un'afa soffocante. Al 706 di Union Avenue, quasi a ridosso della Marshall, c'è un edificio di mattoni rossi avvolto da uno strano silenzio. Al suo interno tre persone sono sedute tranquillamente in attesa. Si tratta di due ragazzi giovani e un signore di 33 anni. I primi, Bill Black e Scotty Moore, si trovano all'interno di una saletta insonorizzata. Poco più in là, diviso da una parete che circonda un'enorme vetrata, c'è Sam Phillips, il proprietario del locale. C'è una jam session in programma. Dopo un passato da DJ, infatti, Sam da qualche anno ha messo su un negozio, il Memphis Recording Service, dove è possibile incidere un disco con $4 e anche una piccola etichetta musicale, la Sun Records, con una missione ben precisa in testa. Se trovassi un bianco capace di cantare con l'anima di un nero, potrei diventare milionario. È un tizio strano, Sam, non è uno come gli altri. Lui pensa che il produttore debba essere al servizio dell'artista e non viceversa, come pensano quasi tutti. Per questo molti aspiranti musicisti della città e dei dintorni, per lo più uomini di colore, hanno varcato la porta del Memphis Recording Center e si sono messi lì con lui a registrare. Sam li tratta tutti allo stesso modo. Li fa accomodare nella saletta e poi, con la porta della sua stanza aperta, lascia che ognuno trovi un accordo, una nota, un'ispirazione per cominciare. La sessione si protrae fino a che tutti sono soddisfatti e solo raramente Sam interviene per dare qualche indicazione. Lui sente che quello è il modo giusto, l'unico per trovare quello che cerca, come ricorda proprio Scotty Moore. Sam possedeva un'abilità quasi naturale nel tirare fuori dalle persone cose che queste neanche sapevano di possedere. Sapeva che ben presto si sarebbe verificato un cambiamento. Penso che a forza di registrare tutti quegli artisti di colore aveva sviluppato una specie di senso della premonizione, solo che non sapeva dove l'avrebbe condotto. In linea di massima, Sam aveva lo stesso retroterra di quasi tutti noi altri che stavamo cercando qualcosa, ma non sapevamo cosa fosse. E così ce ne stavamo lì davanti ai nostri caffè a dirci l'un l'altro: che c'è? Che dobbiamo fare? Come possiamo farlo? Sono passate da poco le 19 quando la porta dei Sun Studio si apre. Un quarto ragazzo fa il suo ingresso e saluta tutti. Si chiama Elvis. Elvis Presley. Come è arrivato fin qui? Elvis è un ragazzo di appena 19 anni. È arrivato a Memphis da qualche anno. Prima viveva a Tupelo, poi, a causa delle poche opportunità di lavoro insieme a papà Vernon e a mamma Gladys, si è trasferito in città. I Presley sono un po' alle strette e hanno urgente bisogno che in casa entri un reddito in più. Così, il giorno stesso in cui si diploma alla high school, Elvis entra nel Tennessee Employment Security Office di Union Avenue a Memphis e chiede di essere inserito nelle liste di collocamento. Gli va bene qualsiasi lavoro pur di aiutare la sua adorata famiglia. Mi piace il modo in cui sono cresciuto. Mia madre, mio padre, tutto quello che mi stava intorno. Sono contento di come sono stato educato a credere in quello che facevo e di aver imparato a trattare bene gli altri, a trattarli come vorrei essere trattato io stesso. Elvis è disposto a fare il camionista pur di aiutare i suoi a vivere dignitosamente. Eppure non cessa affatto di coltivare le proprie ambizioni. Gira spesso per la città con la chitarra sotto mano. Gli piace la musica. E quando ha saputo che c'era un tizio che ascoltava tutti, un giorno ha sconfitto la timidezza e si è presentato al Memphis Recording Service con il pretesto di incidere un disco da regalare alla mamma. O forse voleva solo che qualcuno lo sentisse. E Sam Phillips lo ha sentito e come. Quel furgone andava avanti e indietro in continuazione. L'avevo notato spesso. Nei paraggi c'erano parecchie consegne da fare. Poi finalmente un giorno ha trovato il coraggio di entrare e dire alla mia assistente che voleva incidere un disco per il compleanno di sua madre. Quando l'ho visto ho pensato che non potevo rifiutare. Hai $4? Gli ho chiesto. Devo ammettere che l'ho sentito. Ha cantato un pezzo intitolato My Happiness. E questo ragazzo era straordinariamente diverso da qualunque altro. Avevo capito che aveva più potenzialità di quelle degli altri giovani a cui facevo ogni giorno i provini. Così Sam contatta Scotty e Bill e organizza una session come fa sempre, come fa con tutti, per metterlo alla prova. Ecco perché si trovano lì. Most of all I love you cause you're you. No matter what the world may say about me. La session è cominciata da un po' e i ragazzi sono impegnati senza successo su una canzone di Leon Payne, I Love You Because, una famosa ballata country in voga da qualche anno. Elvis è un po' nervoso e imbarazzato, a tratti biascica, come se stesse cercando di trovare la voce giusta. Scotty è alle prese con accordi complicati, mentre Bill punzecchia le corde del suo contrabbasso. I ragazzi sembrano un po' sconfortati e col solito tempismo Sam propone una pausa per ricaricare le pile. Mentre stanno sorseggiando una Coca-Cola, Elvis, come colpito da un'illuminazione, chiede a Bill e Scotty di rientrare per provare un'altra canzone. I due ragazzi sono stanchi, ma raccolte le forze, dopo un breve sospiro, si alzano. Rientrano in studio. Improvvisamente Elvis cominciò a cantare questa canzone così, saltando tutto intorno e facendo un po' il matto. Bill prese il contrabbasso e cominciò a fare il matto anche lui, e quindi anche io mi misi ad andargli dietro. Sam aveva la porta della regia aperta e così ficcò la testa in studio e disse: «Che fate?» «Non lo so», risposi. E lui: «Bene, allora tornate indietro e rifatela da capo». La leggenda dice che i tre ragazzi ubbidirono, tornarono indietro, presero un punto e cominciarono da capo. È così che è nato il rock and roll. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right, that's all right, that's all right, mama. Ma cos'è che ha sentito Sam Phillips? Cos'è che lo ha fatto sobbalzare dalla sedia e registrare freneticamente uno, due, tre take della canzone? Qual è il motivo per cui, subito dopo quella session, decide di contattare un altro Phillips, Dewey, per chiedergli di mandare in onda nella sua seguitissima trasmissione radio il pezzo che aveva appena registrato? Beh, non basterebbe l'intera puntata per spiegarlo, ma forse esiste un modo per provare a dare un'idea. Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. Questa è la versione originale del pezzo che Elvis ha inciso con Bill e Scotty. Si chiama That's All Right, Mama, ed è suonata e cantata dal suo creatore, Arthur Big Boy Cudrup. Ecco, se mettete a confronto le due versioni e riuscite a cogliere la differenza, ci siete andati vicino. Avete intuito che cos'è il rock and roll. Ma di certo un'intuizione non basta, perché il rock non è rappresentato solo dal suono che esce dal disco, ma dall'uomo che lo produce e lo interpreta, da un ragazzo che diventerà re, Elvis Presley. Elvis Presley è una delle persone più incredibili che ho avuto il piacere di conoscere nella mia vita. Dopo aver udito la sua voce e aver visto il modo in cui suonava, ho pensato subito che si trattava di uno stile molto diverso da tutti gli altri. Ero molto colpito e mi chiedevo fino a che punto sarebbe arrivato come artista. Che ci crediate o no, è proprio così, come ha detto Sam Phillips. Non pensate che sia facile retorica o la solita tiritera autoreferenziale. Il re emerge davvero all'improvviso dal fango e dalla polvere del Tennessee per sfidare le leggi della logica e colpire in piena fronte il buon Sam. Il giovanotto che si presenta agli studi quel 5 luglio 1954 è uno sbarbatello con i capelli impomatati e la mania di vestirsi in modo sgargiante. È un bravo ragazzo che fa consegne con un furgone. È timido e un po' mammone, tutto qui, finché non attacca a cantare e tutto si trasforma completamente. Wop-bop-a-loom-wop-a-lop-bam-boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love best. Tootie-fruity. E nel breve sodalizio che unisce Elvis e Sam, che prende forma l'essenza del rock and roll, nei dischi incisi successivamente a That's All Right, Phillips non abbandona il suo intuito e si prende cura del ragazzo, gli organizza altre session con Bill e Scotty, mantenendo quel clima di serenità necessario, li fa suonare, senza ricercare la perfezione. Lascia che i suoni si mescolino, trascinando nell'amalgama anche le piccole imperfezioni. Quando registra abbassa la voce a livello degli altri strumenti, contravvenendo alle abitudini di quei tempi. In più, ci mette il marchio di fabbrica, quell'effetto eco che renderà le canzoni di Elvis uniche e che nessuno, neppure i tecnici della miliardaria casa di produzione RCA, in seguito riusciranno a replicare. Il risultato è un nuovo incredibile suono chiamato rock and roll. Baby, baby, baby, I come back, baby. I wanna play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be no nobody's fooling now. Baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play with you. Naturalmente, le doti fuori dal comune di St. Philips non bastano da sole. Ecco perché si dice che il rock non è nato solo dalla musica, perché laddove si esaurisce la spinta del suono, laddove finisce la Sun Records e il suo inimitabile apporto, comincia quello del re. Solo un paio di settimane fa un giovane ha registrato una canzone per la Sun Records e nel giro di poche settimane quella canzone ha scalato la vetta delle classifiche e sta andando veramente bene in tutto il paese. Ha solo 19 anni, è un nuovo e inconfondibile stile. Elvis Presley, facciamogli un applauso. Let's give him a nice hand. We've been singing your songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening? Elvis, come ti senti stasera? Sto proprio bene, signore. E voi? Tu e la tua band siete carichi? Siamo carichi. Eh beh, volevo dire che siamo felici di essere qui. È un vero onore per noi poter apparire alla Louisiana Hayride. Faremo una canzone per voi. That's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. Questa è una delle primissime esibizioni live del re, nel 1954. Dopo la normale presentazione, un timido applauso accoglie Elvis, il quale, vincendo un po' di nervosismo e di imbarazzo, ringrazia tutti e lancia il brano. Attorno al ragazzo c'è curiosità e simpatia, nulla di più. E certamente lui è ancora un po' impacciato, soprattutto prima di attaccare a suonare. Quando parte la musica, infatti, cade come in trance e comincia ad agitare chitarra, braccia, persino gambe. Forse ci vuole un po' di tempo, un po' di esperienza. Ecco quello che succederà poco meno di 2 anni dopo. Non c'è verso di capire qualcosa della canzone, fidatevi. Ed è una cosa che capita spesso a Elvis in quel periodo. La gente sembra come impazzita, soprattutto le ragazze. Urlano, spingono. E quando lui si avvicina troppo, gli saltano al collo per strappargli qualche pezzo di indumento di dosso. Eccolo, l'altro lato del rock. A dispetto della sua timidezza e semplicità, Elvis è un vero e proprio animale da palcoscenico. Riesce letteralmente a infuocare le folle. Merito del suo modo di agitarsi quando suona e soprattutto di quel gioco che fa con le gambe, con le ginocchia che si vanno a toccare e il bacino che si abbassa, senza dimenticare il ciuffo di capelli che ondeggia quando balla. Le ragazze vanno in delirio. È questo il rock and roll alle sue origini, un suono e un performer nuovi, unici, travolgenti, un mix che non ha precedenti, una vera e propria rivoluzione. C'è bisogno di qualcuno che provi a mettere un po' di ordine in questo caos. Sta per arrivare il colonnello. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. I magnifici destini. Siamo ancora là, al confine tra la logica e il soprannaturale, a cercare qualcosa che abbia un senso in una serie di eventi che davvero poco hanno a che vedere con il raziocinio. Elvis Presley, sconosciuto giovane guidatore di pulmini dal capello brillantinato agli inizi degli anni 50, è entrato nello studio della Sun Records di St. Philips, senza grosse pretese e nessuna apparente dote in particolare, per uscirne con il dono più prezioso che una voce, una chitarra e un contrabbasso potessero regalare, il rock and roll. Voglio solo dire, prima di ogni altra cosa, che è un gran privilegio poter partecipare a questo spettacolo e che cercherò di fare del mio meglio insieme ai ragazzi che sono con me per fare un grande show. Di puro intrattenimento, non ci sono messaggi o altri scopi, voglio solo farvi felici per il resto del tempo che trascorreremo insieme. Elvis ripeterà questa specie di mantra per buona parte della seconda metà degli anni 50, mentre assiste incredulo alla crescita esponenziale della sua fama. Un'escalation che non ha precedenti e che non troverà rivali neanche in futuro. Più le radio trasmettono i suoi pezzi, più la gente telefona per richiederli. Più si esibisce dal vivo, più i luoghi che lo ospitano aumentano di grandezza e di importanza. La cavalcata esce presto fuori da Memphis per invadere il sud prima e il resto dell'America dopo. L'onda Elvis sembra davvero inarrestabile. Persino un re, nella sua onnipotenza, è costretto talvolta a ricorrere ai servigi di altri uomini per esercitare il proprio governo, anche se questo comporta dei sacrifici. Accerchiato dai fan, dalla fama e dalle proposte che continuano ad arrivare, l'astro nascente Elvis Presley, a un certo punto della sua irresistibile ascesa, decide che è il momento di cambiare consigliere. Io mi occupavo della promozione e della pubblicità, mentre lui pensava allo spettacolo che faceva sul palco. Sono stati i fan a rendere tutto possibile. Puoi provare a promuovere quello che vuoi, ma se la gente non compra il biglietto, non serve a niente. Io facevo la mia parte, Elvis gli show. E siamo stati fortunati. Non lasciatevi ingannare dalla voce calma e pacata che avete appena sentito. Stiamo parlando di un uomo talmente sfuggente che la ricerca di qualsiasi definizione sarebbe tempo sprecato. Pensate solo alla sua identità. Si chiama Andreas Cornelis Van Huyck, ma è conosciuto da tutti come il colonnello Parker, il manager di Elvis Presley. Una volta assunto il ruolo, verrà ricordato, oltre che per il suo lavoro, anche per la memorabile capacità di sintesi con cui liquiderà la maggior parte delle domande sulle esibizioni di Elvis. Abbiamo assistito a un ottimo show e ci siamo divertiti parecchio. Che piaccia o meno, se si parla del re non si può fare a meno di parlare anche di questo strano, imperscrutabile, discusso personaggio. Un imbonitore nato in Olanda, che passa tutta la gioventù a lavorare nelle fiere per potersi pagare il viaggio negli Stati Uniti, dove vuole emigrare. Un individuo con dei segreti, che riesce a intrufolarsi illegalmente in America e a rubare il nome d'arte da un colonnello dell'esercito. Certamente un uomo d'affari molto astuto, che riesce a capitalizzare il regalo più grosso che la vita gli ha messo davanti al naso, Elvis Presley. Gentlemen, you're probably all wondering what these objects are behind me. I have a very good answer for you. I'm going to tell you, rather. They're gold records. Now, these gold records, four of them, have been awarded to a singing star that you're going to meet in a moment. You know very well who I'm talking about. I'm talking about Elvis Presley. Thank you, Mr. Lawton. Ladies and gentlemen. Well, this is probably the greatest honor that I've ever had in my life. There's not much I can say except it really makes you feel good, and we want to thank you from the bottom of our heart. And now, don't be cruel. È stato certamente il colonnello ad aguzzare la vista su Elvis, su questo non ci sono dubbi. Pur con tutta la consapevolezza, quando le loro vite si incrociano, Elvis è ancora troppo stordito, troppo giovane e troppo impegnato a impomatarsi i capelli per capire chi ha davanti. È molto probabile invece che il colonnello abbia fiutato la preda alla distanza. Nel 1955, quando la collaborazione tra i due diventa ufficiale, Tom Parker ha già cambiato pelle più di una volta ed è nel mondo della discografia da un po'. Tra le mani ha Hank Snow, uno dei cantanti country più in voga. Davanti al naso ha il rock and roll in carne ed ossa. Well, get out of bed, wash your face and hand. Get out of bed, wash your face and hand. Well, get in that kitchen, make some noise with the pots and pan. Nasce tutto da un'esigenza, non è che succede per caso. Quando il colonnello sfila da sotto il naso Elvis Presley a Bob Neal, il manager precedente incaricato da Sam Phillips, ci sono radio, eventi, spettacoli, persino le televisioni a fare il filo al nuovo fenomeno. Non c'è tempo da perdere. Il colonnello mette la sua firma sul contratto e immediatamente si getta anima e corpo nella promozione del suo pupillo. Ben presto Elvis diventa una macchina da soldi e comincia a fare cassa di tutto quel baccano che produce. Il colonnello è sempre di fianco a dettare costi e condizioni e a guardare verso la tappa successiva, che come logico aspettarsi, si chiama Hollywood. Jailhouse Rock. Atlantic jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing that rock. Saranno molte le scelte fatte per Elvis dal colonnello Parker che faranno discutere. Tra tutte, quelle riguardanti la carriera di attore. Anche se, a onor del vero, le prime apparizioni sul grande schermo hanno un valore molto diverso dalla serie di B-movie che lo vedranno protagonista negli anni 60. Quando arriva per la prima volta a Hollywood, infatti, trascinato dagli accordi presi dal suo manager, Elvis è nel pieno della sua scalata all'Olimpo. Ci sono grandi registi e grandi attori disposti a lavorare con lui e l'occasione sembra davvero ghiotta. E film come Love Me Tender e Jailhouse Rock mantengono le promesse. Il colonnello, nel frattempo, conscio della potenza e dell'importanza delle nuove forme di comunicazione come strumento di promozione, non resiste alla tentazione di metterci lo zampino. Ed ecco che quelli che dovrebbero essere ruoli e storie normali subiscono qualche lieve modifica. E alla fine si trova sempre il modo di inserire uno spezzone in cui Elvis canta una nuova hit da lanciare. È il business, gente. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. L'irruzione di Elvis nel mondo conosce alla fine degli anni 50 la sua prima e forse davvero unica brusca frenata con la partenza per il servizio militare. È l'anno del Signore 1958 e pur essendo in cima al mondo e in grado di dettare condizioni, Elvis decide di accettare la chiamata alla leva. Naturalmente è stato il colonnello a convincerlo. Stare lassù in alto è pericoloso e basta un soffio di vento un po' storto a rovinare tutto. Elvis è già la star più pagata al mondo. La RCA ha sborsato più di $35,000 nel 1956 per accaparrarselo, una cifra senza eguali. Nonostante il suo successo, è in costante guerra con l'America puritana che non gli perdona i suoi dimenamenti e l'isteria femminile che provoca. In più, il militare potrebbe rivelarsi una buona mossa di marketing. Parola di colonnello. Elvis's actual induction came on March 24th, 1958. No soldier was ever drafted into the army with the fanfare and publicity that surrounded Presley's. Give us a room with a view of the beautiful ride. Pochi giorni prima di partire per la Germania, muore mamma Gladys a causa di un male incurabile. La tanto amata mamma Gladys. È la fine di un'epoca. Ho fatto un sacco di belle esperienze, ma anche alcune brutte. Ma credo che per quanto certe esperienze siano state tragiche, sono queste che mi hanno reso più umano. Elvis Presley parte per l'Europa portandosi dietro una lunga scia di domande incognite che riguardano il suo futuro. Tutti si domandano che fine farà il re. Alle spalle, oltre alle centinaia di migliaia di fan disperati, Elvis si è lasciato anche Sam Phillips, travolto dall'impossibilità di saper gestire un fenomeno così inaspettato. Alcuni appassionati punteranno il dito contro le incapacità manageriali di Sam, dimenticandosi che lui è un produttore e il suo ruolo è quello di scovare talenti, non certo di amministrarli. Qualche anno dopo, Phillips investirà parte del denaro guadagnato in alcune stazioni radio e in una catena di alberghi destinata a diventare celebre, gli Holiday Inn. Niente male come rivincita. Nel frattempo, troverà il modo di tirare fuori altri cilindri dal cappello, rivelando al mondo musicisti del calibro di Johnny Cash, Roy Orbison e soprattutto Jerry Lee Lewis, le mani più infuocate del rock. E lo farà, come sempre, aprendo le porte del suo studio e aspettando con pazienza che tutti siano pronti per cominciare a suonare. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. I magnifici destini. Well, Elvis, that's our little welcome home gift. The 2 years you lost while you were in the army. And looking back over it, I'm struck with the realization that maybe you didn't miss so much after all. As a matter of fact, all you seem to have lost is your sideburns. Now, folks, what would you say if I were going to sing another song now? Il rock and roll è tornato a casa dopo 2 anni di lontananza, a dare il bentornato al re con un largo sorriso e un altro senatore a vita, niente meno che The Voice, Frank Sinatra. Lo stesso Frank Sinatra che qualche tempo prima aveva definito il rock la più brutale, brutta, disperata e perversa forma di espressione che avesse mai ascoltato. Maledetti giornalisti. Chissà se ha cambiato idea o è solo una faccenda di diplomazia. In ogni caso, il fatto più importante è che tutto sembra tornare al proprio posto. Lo ha fatto il re e lo farà senz'altro anche il rock. Ci saranno altre canzoni, altri balli, altre urla. A meno che il colonnello... Buenos días, Charro. What would you like? Tequila. Megan. Dos pesos, Charro. Il re è quasi morto. Viva il re e abbasso il colonnello. Lui è quella sua fissazione di dover monetizzare a tutti i costi. Il manager che durante la leva aveva sfoderato tutti i trucchi del mestiere per tenere alta l'attenzione su Elvis non lascia il tempo a Presley di ragionare e subito dopo il suo ritorno lo trascina in un vortice di film e filmetti con strani titoli tipo Il cantante del Luna Park, Tre fusti, due bambole e un tesoro, Un uomo chiamato Charro. Non esattamente roba che si addice a un re. L'esilio sul set dura circa 8 anni. Elvis è troppo confuso per replicare. Si chiude nelle mura dorate di Graceland, l'enorme casa coloniale che diventerà museo, circondato da lussuosi mobili colorati e strani animali. Si sposa con la affascinante Priscilla Wagner, conosciuta in Germania, perché il re non può avere solo ancelle, ma deve avere anche una regina. E lascia che i suoi amici, o presunti tali, che la stampa soprannomina Memphis Mafia, si occupino di presidiare con sguardo truce il fossato che lo divide dal popolo, finché Elvis un giorno non decide di gettare la maschera di ferro. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed. Nel 1968 il re fa il suo ritorno, ed è un ritorno col botto. Si tratta di uno speciale organizzato dalla NBC per la TV. In camerino, ad attenderlo, c'è l'abito da Babbo Natale con cui dovrebbe entrare in scena, un'altra invenzione del colonnello. Il re vestito da Babbo Natale. Beh, questo è davvero troppo. Non si tratta di fare business. Qui si tratta di fare musica, di dare un segnale, di riprendersi in mano ciò che gli spetta. Elvis si presenta davanti alle telecamere vestito da capo a piedi di pelle nera. Lo show è una lunga serie di artifici pirotecnici che culminano con la vera notizia bomba. Il rock è tornato a casa. E questo è solo l'inizio. Elvis, perché hai ricominciato a fare delle apparizioni? Perché mi mancavano. Mi mancavano molto. Sai, stare vicino agli spettatori con la carica che ti danno. Ecco, insomma, quando i contratti per i film sono scaduti, ho deciso di tornare sul palco. Ed eccomi qui. My Way. And now the end is near, so I face the final curtain. Lo speciale della NBC diventa il trampolino di lancio del re che nel giro di 5-6 anni percorre tutta l'America per riprendersi quello scettro, quello che sembra essere passato nelle mani di 4 ragazzini capelloni di Liverpool. È un Elvis invecchiato, nonostante l'eterna faccia da ragazzino. Ma dentro c'è ancora traccia di quel fuoco sacro che ha rivoltato il mondo come un calzino. Il viaggio del rock attraverso il suo territorio e la sua gente culminerà con il concerto alle Hawaii del 1973. Un evento unico, con 1 miliardo di persone collegate da tutto il mondo. Un trionfo. Ora le luci possono essere abbassate. È la mattina del 17 agosto 1977. Sono da poco passate le 10. Il sole è sorto da qualche ora e Memphis è avvolta da una strana quiete. A Graceland sembrano dormire ancora tutti. La nottata è stata lunga, come capita spesso da queste parti. Ma a guardare bene, non tutti stanno riposando. Chiuso, dentro la sua stanza da bagno, c'è il re. È seduto e il corpo è piegato in due su se stesso. Non si muove. Non c'è più il battito. È finita. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete and re se n'è andato e si è portato dietro il segreto, lasciandoci solo il dono. In fondo è giusto così. Non troverete mai una definizione del rock and roll che possa in qualche modo essere esaustiva, semplicemente perché non può esistere una definizione esaustiva di rock. Il rock è nelle gambe e nel bacino di Elvis, è nella sua inimitabile voce, nelle esibizioni in cui si buttava con il corpo prima e con il canto poi, e nei suoi vestiti di pelle e nei suoi colletti alti, nel suo sguardo da ragazzo di campagna, in quelle incredibili labbra, nelle sue Cadillac e nella sua collezione di orsi di peluche, nei suoni di Sam Phillips e nei trucchi del colonnello Parker, in Mamma Gladys, ma anche in June, Priscilla, Ginger, Natalie, Dixie, nei medicinali che lo hanno gonfiato, nel country, nel gospel, nel rhythm and blues, nelle parole dello speaker che a ogni fine concerto annunciava «Signore e signori, Elvis ha lasciato l'edificio», e nelle sue fughe in auto con addosso ancora i vestiti di scena e il sudore che cola, negli applausi e nelle urla che accompagnano la fine dello show. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby.